Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, siamo in grande forma. Grandi entrambi, sembriamo due punci di suonate. Per una serie di ragioni diverse, ma sia io che te stamattina. Io ho la febbre. Ma tu noi non agli dormito. Ascoltatori, non lo diciamo ovviamente, perché siamo sempre fragranti come dei crackers. No, a quest'ora bisognerebbe dire come dei cornetti, ma a me i cornetti per una serie di ragioni non piacciono. Perché a me non ti piace i cornetti? I cornetti mi hanno sempre evocato il fatto di noi mariti. Ma tanto è uguale, uno sei cornuto e cornuto, mangiateli lo stesso. Questa è la rassegnazione che ancora non sono riuscito dopo alcuni anni a farmi venire. Però è giusto avere questa filosofia di vita e quindi bisogna pregare. E il santo del giorno è San Teodoro di Amasea, era un generale romano sotto Galerio Massimiano, e però era cristiano. Quando l'imperatore gli ingiunge di sacrificare agli dèi, lui pensa bene di bruciare un tempio agli dèi, quindi l'imperatore un po' si arrabbia e gli fa fare una brutta fine, quindi martire, e oggi si ricorda lui. Oggi è il giorno che spiega l'espressione falò delle vanità. Perché si dice falò delle vanità? Perché nel 1497 Giovanni Savonarola, un pentastellato dell'epoca praticamente applicato alle vicende della Chiesa Cattolica, cacciati i medici, chiese a tutti i fiorentini che amavano il lusso, il peccato eccetera, di bruciare in piazza gli specchi, i broccati, le sete, i damaschi, e per questo si dice il falò delle vanità, il primo martedì di carnevale. E diciamo che però Savonarola ha perso nella storia della città, la gente ama il lusso, e il lusso non è solo per i ricchi. Il lusso è prodotto da chi altrimenti non avrebbe soldi e ha meno redditi. Lo so che questa cosa non era chiara a Savonarola e non era chiara ai redistribuzionisti marxisti nemmeno adesso, però funziona così. Il lusso aiuta chi ha meno, non solo chi ha di più, perché è il suo divertimento. La Svizzera pensa che nel 1971, oggi, solo nel 1971, consenti il voto alle donne. Chissà se è saggezza. Ovviamente no, ma quando io ve l'ho letto dico come. Ma se 1971. Elisabetta Fusconi svizzera, che ci fa una testa tanta che la Svizzera. Ma Elisabetta Fusconi, per fortuna lei è giovane, perché se avesse avuto l'età per votare al 71 forse protraevano ancora la scelta. Ma bisogna massacrarla un'intera giornata oggi. È così che ci vuoi fare. Allora, tanti auguri al mio amico Jasch Gavronski, grande giornalista, grande esponente di una famiglia che ha fatto la storia della Polonia, e veramente mi fa piacere. A Vasco Rossi, che ha segnato generazioni italiane, visto che oggi inizia Sanremo. Ma vi dico la verità, io che pure ho cantato anch'io, perché ho obbligato da giovane, canzoni di Vasco Rossi, tutte le canzoni di Vasco Rossi non valgono il riff di Lotta Love, secondo me, di Jimmy Page. No, il riff iniziale di Lotta Love e tutta la discografia di Vasco Rossi, io scelgo invece quella dei miei dilettissimi. Che altro? Anche auguri a Federico Taddei, che è ben noto al pubblico di Radio 24, e a Giuseppe Baresi, che invece è ben noto alla tribù dei milanisti. Da Giuseppe dell'Inter. Ha detto apposta, perché così Meazza gli devo dare un pochino di... caro mio. Va bene. Allora, cosa vogliamo parlare oggi? Allora, vabbè, sicuramente ci concentreremo ancora sugli statali. Vedi che cambiano le regole per cercare di beccare i malati immaginari. Non faremo come il nostro Forchielli, che alle 6.30 ha detto la ricetta. Un po' cattivello. La ricetta per contrastare l'assenteismo agli statali ce l'ho io. Microcippiamoli come i cani. È un po' cattivello. Era una battuta, cari amici statali, era una battuta. Non vorremmo mai 3 milioni e mezzo di persone. Clic, clic, click. No, ma secondo me i forchieri vuole dire un'altra cosa, perché magari si perdono negli uffici, capisci? Con il microchip e li trovi. Però ha detto questo, cattivissimo. Forchieri cattivissimo. Cattivissimo. No, in realtà arrivano le nuove visite fiscali mirate, non più attraverso l'ASL, ma attraverso l'INPS. Perché sorridi? No, io dico. Ti ricordi che il ministro Madia all'inizio presentò il suo decreto dicendo in 48 ore, non come la riforma Brunetta, in 48 ore noi avremo le regole per mandare fuori chi è sorpreso a fare il furbetto. Il decreto, che ancora aspettava di essere mandato nel frattempo, adesso diventa 30 giorni. Va benissimo, io do atto volentieri a chi al Ministero sta seguendo il dossier da tempo. Meglio scrivere regole buone che regole che non funzionano. Attenzione, perché non hanno mai funzionato. Potevate evitare di dirci 48 ore, perché era propaganda, lo abbiamo detto dall'inizio, ci avete bastonato e infatti avete scritto che non era 48 ore. Scusa, ma siccome su questo io ho avuto una polemica aperta, certo, quando fu annunciato le 48 ore, perché 48 ore era impossibile, chiaramente. Come sempre, quando si fa propaganda, la realtà si prende la sua dura rivincita. Però arriveranno nuove regole, sarà più facile contrastare l'assenteismo nel pubblico impiego? Questo speriamo. Parleremo anche di pendolari, sai che molti ci ascoltano in treno. Si è scoperto che c'era un algoritmo, quando non si sa da chi dare la colpa, sì, basta dare un algoritmo. C'era un algoritmo che faceva i biglietti più cari per i pendolari. Se ne sono accorti i pendolari, peraltro, non è che se ne sono accorti alla conferenza Stato-Regione. No, fa morire da risate, perché il classico esempio, ora che tutti tornano a dire che ci vuole più Stato, la lira, i dazi, sovranisti, fuori gli stranieri. Allora, la mancanza di concorrenza e il fatto che non ci siano state gare per l'offerta di servizi di trasporto ai pendolari, e qui stiamo parlando dei pendolari quindi tra regione e regione, ecco che cosa comporta. Cioè l'azienda di Stato, che tutti credono sia la migliore per fare questo servizio, si becca un servizio. Dopo anni scopriamo adesso che sono stati truffati, perché hanno pagato di più i pendolari interregionali. E qual è però la dimostrazione della collusione statale, lo Stato, mano destra e mano sinistra, che lo Stato, Trenitalia dello Stato e le regioni, e ciascuno adesso giocano a rimpiattino, dicono che la colpa è di un altro, sarebbe un oscuro funzionario di non si sa chi, che si è inventata la formula. Un algoritmo, non lo so. Poi tutti questi soldi che fanno? Glieli daranno indietro? Adesso lo Stato dice che le regioni e gli enti locali o pagano loro la differenza rispetto al contratto di servizio a Trenitalia, perché Trenitalia vuole i soldi comunque. Dice: noi abbiamo un contratto di servizio, paghino le regioni. A questo punto ci vorrebbe una bella class action all'americana. Sì. Per pagare un bel po' di soldi ai signori dello Stato. Guarda qua, tanto un ascoltatore che ci dice: Oscar, mia mamma, dopo tanti tradimenti, chiama i cornetti gli amici di famiglia. Gli amici del marito. Gli amici di famiglia. Non so perché vuoi mettere in mezzo anche i figli. Ma io capisco. No, ma è giusto prenderla con filosofia. L'evoluzione nel tempo dei rapporti coniugali è come, insomma, bisogna essere molto sereni e umoristi. Comunque, noi abbiamo chiamato un sociologo, è stato direttore generale del Censis, ora è segretario generale dell'Associazione per le Città Italiane, Rete Urbana delle Rappresentanze, Giuseppe Roma. Professor Roma, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. Perché buongiorno. Vogliamo parlare un po' di questi statali, intanto a capire se davvero trasferendo le competenze delle visite fiscali dalla ASL all'INPS si può in qualche modo ridurre il numero di assenteisti tra gli statali, sempre che non vogliamo microchipparli, perché ci scrivono gli ascoltatori, era una battuta che ci ha fatto prima Forchielli, nessuno vi vuole microchippare come i cani. E naturalmente diamo per scontato che la reazione all'INPS sarà: non siamo abbastanza, ci vogliono più assunti. Questo diamolo per scontato, che i medici di servizio all'INPS dicano che è una nuova funzione, che loro non sono in grado perché ci vogliono più assunti. Però chiusa parentesi. Professor Roma, che dice? Beh, io dico questo: in Italia abbiamo alcune madonne pellegrine, quando non si sa cosa fare si prende o l'autorità anticorruzione o l'INPS e gli si dà nuove funzioni. Appunto. Perché questo acquieta un po' il disagio e anche il senso di frustrazione che spesso si ha nell'affrontare certi problemi. E innanzitutto l'impostazione stessa della questione, cioè qui il problema non è solo l'assenteismo, perché anche quando uno fosse rinchiuso dentro un ministero, dentro un ufficio, con i tornelli di Brunetta o con i cavalli di Frisia, non è detto che poi lavori o che faccia quello che i cittadini vogliono. Quindi bisogna andare al cuore del problema. È chiaro che il controllo è una delle funzioni importanti, cosiddette, gli americani lo chiamano enforcement, cioè se tu fai una legge e poi dopo nessuno la fa rispettare, non devi fare quella legge. Però non, secondo me Qui non siamo neanche a nuove regole, ci saranno delle nuove regole, dobbiamo vedere, in cui chiaramente dovrebbe essere, diciamo, quello che è normale e ragionevole, insomma, no? Sappiamo di quanti casi poi se qualcuno non è fedele all'amministrazione, se addirittura compie anche reati, sappiamo che è molto difficile che l'amministrazione si privi della sua opera. Quindi ci vogliono delle regole, ci vogliono dei controlli, però al fondo dobbiamo riconoscere che ancora, nonostante ci siano milioni di statali che fanno il loro lavoro, che sono bravissimi, ci sono i giovani, eccetera, eccetera, però nei fatti ogni cittadino, lo dicono tante questo. Indagini, lo dicono indagini internazionali sull'affare gli affari, cioè avere un'attività economica in Italia, ci dicono che l'Italia è un paese dove la burocrazia domina invece di essere al servizio della società civile. Ieri sulla stampa c'era questa cifra, 7 miliardi di euro, quasi 7 miliardi di euro, a tanto ammonterebbe il costo per tutti noi di certificati, fasulli, leggi 104, falsi invalidi, permessi, assenteisti. Si può fare questa cifra a Roma? Ma sì, secondo me forse anche per difetto, perché insomma se ognuno di noi pensa quanto tempo perde inutilmente, che lo moltiplica con quello che può essere una retribuzione, cioè si arriva a delle cifre enormi, ma noi perdiamo investimenti da miliardi per ragioni burocratiche, noi perdiamo occasioni di posti di lavoro che non vengono creati, è chiaro che noi viviamo in una società democratica e questa democrazia ha bisogno delle regole, e il mercato deve essere regolato, però insomma il problema vero è che noi dobbiamo capire che il lavoro, l'occupazione, il benessere, il PIL lo creano gli operatori economici, e quindi lo Stato deve avere una funzione di arbitro, insomma, no? Non può essere invece quello che stabilisce se e come può avvenire, diciamo così, un'azione di tipo economico. È questo che crea il buco, insomma, al di là del fatto che naturalmente pagare delle persone che non producono nulla è un gravissimo spreco. Quindi noi abbiamo nella burocrazia da fare ragionamenti, diciamo, rifondativi. Non credo che dando in pasto, diciamo, il provvedimento che va da domani in poi, cioè l'abbiamo avuti tanti e sì, tutti con buone intenzioni, no? Brunetta mise i tornelli e io appunto gli dissi: caro Renato, va bene tenerli dentro, però chi li fa lavorare poi? Sì, c'è poi il tema della produttività, insomma, uno sta lì e poi bisogna vedere che cosa fa. Caro Oscar, qua la questione Roma ci fa capire che non è che cambiando questa legge si può cambiare. No, ma io poi aggiungo, cioè, ci sono dei segnali nel frattempo, come devo dire, il ciclo politico, come si dice con un linguaggio tecnico, arriva come segnale alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in realtà ha visto i suoi sindacati impegnati da anni contro ciò che ha vissuto come iniquità. L'iniquità innanzitutto del blocco dei contratti, del blocco degli scatti, l'iniquità del blocco del turnover che ha invecchiato l'età media. Tutto questo naturalmente si dice ai sindacati: sì, ma voi a parità di mansioni avevate una retribuzione molto più elevata del privato. Ti allargano le braccia, ti dicono: e beh, ce l'avevamo e volevamo continuare ad avercela. Però io naturalmente penso che sia servito in parte a riequilibrare. Le retribuzioni restano più elevate, anche se naturalmente con medie di retribuzioni basse nella scuola e altissime come in altre parti, cioè alla Farnesina e così. Però detto tutto questo, e ti rispondo, se nel frattempo ci abbiamo messo 2 anni per portare a casa il decreto Madia, 2 anni poi alla fine, ma nel frattempo alla scuola i sindacati vincono perché col nuovo sindacato, col nuovo ministro strappano il diritto basta l'assegnazione di 3 anni in cattedra e ottengo di nuovo il diritto di andare alla scuola più vicino a casa mia, come è avvenuto, tu capisci che il segnale è resistenza, resistenza, resistenza. Ecco, ed è questo quello vince, che arriva, no? Quindi il cambiamento di cui parla Roma, che è fatto di esempi e interventi, non voglio dire punitivi, ma di riforma radicale, però portandoli avanti in concreto per mostrare questa è la migliore pratica da seguire e da estendere, poi alla fine se dall'altra parte imbarchi acqua, gli altri dicono che siamo fessi noi, ecco. Intanto diamo il numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire. Roma, quanto c'è di italiano nell'atteggiamento dello statale? Sa che si discute molto spesso del fatto che siamo un popolo magari un po' più dedito alla furbizia rispetto ad altri popoli che sono meno propensi a questo genere di scorciatoie. Lei che pensa? Bah, certamente io penso che l'italiano abbia furbizia e non astuzia, che comunque sarebbe una virtù secondo me, ma la furbizia è, vuol dire scavarsi la fossa sotto i piedi, perché il singolo magari può anche sbarcare il lunario, però il sistema con la furbizia non va da nessuna parte, è un sistema di sopravvivenza. Negli altri paesi noi sappiamo bene che la pubblica amministrazione e comunque la funzione pubblica è sempre stata, diciamo così, soprattutto penso alla Francia o anche alle grandi burocrazie prussiano-tedesche, è sempre stata, diciamo così, la logica del civil servant, cioè uno che si mette a disposizione della collettività. Però vede Roma, io penso anche che ci sia proprio la mancanza, cioè voglio dire, in alto gli esempi si ritiene sempre di non darli. Adesso io pure sono garantista, però se vedo un procuratore ad Aosta che per le mozzarelle e i formaggi viene sospettato e indagato formalmente con accuse rilevanti di vendere la giustizia, la mia opinione è che servirebbe, voglio dire, nei casi come Aosta, il presidente del CSM, che è il presidente della Repubblica, dovrebbe dire adesso basta, e invece non lo dice. Ieri un vice prefetto è stato arrestato perché prendeva le mazzette per i finti permessi di soggiorno. Ci vorrebbe un ministro dell'interno che dicesse e basta, ti caccio, e invece non c'è mai. Allora, alla fine è dall'alto che puzza il pesce, ed è questo lo Stato che vedono gli italiani. Poi dicono, perché votano i 5 Stelle? Per questo. Perché aderiscono al programma di 5 Stelle o non vedono i difetti di Roma e della Raggi? Li vedono, ma quello che vedono è ogni giorno connivenza, silenzio, assuefazione, rassegnazione. Che significa? Più tasse, più dipendenti, e tutti che dicono, ma perché noi dovremmo fare quello che gli altri non fanno? Se chi sbaglia non è punito? È così complicato, Alessandro? No, però insomma, è così. Sottolineo che sei partito dicendo che non eri in grande forma oggi. Ma no, ma non lo sono, perché infatti quando non dormo mi incazzo di più, questo è il punto, questo è il punto. Ecco per questo. Comunque facciamo così, ringraziamo Giuseppe Roma e grazie per essere stato con noi, ex direttore del Censis, che ci ha raccontato anche un po' insomma il rapporto che abbiamo anche noi italiani col pubblico impiego. Ci chiama Giorgio da Roma. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione. Volevo rapidamente intervenire per spiegare questo. Io leggo un sacco di notizie, di storie, mettiamo, spostiamo sull'INPS, mettiamo il microchip, che è una battuta, va bene, eccetera, dai, eccetera. È una battuta, però attenzione, io ho gestito personale per 30 anni. Il medico legale l'ho mandato soltanto 2 volte, quindi vi sto raccontando una storia reale, per 2 motivi. Il primo, intanto era nel privato, non era pubblico. Lavoravo nel privato. Il primo motivo è perché mandare un medico costa 250 euro. Ah. Attenzione, perché l'INPS, l'ASL prende, l'INPS, perché in questo caso parliamo di privato, prendeva 250 euro. Non è detto che poi lo mandi, perché mi ricordo che si mandava col fax. E le 2 storie che vi racconto sono queste. Certo. La prima volta la dipendente chiese 2 giorni di malattia, il medico si recò a casa e gliene diede 4. E la seconda volta non male. E la seconda volta ne chiese 3 e gliene diede 6. È bellissimo. Tutto questo, la doppia, è la doppia. Attenzione ragazzi, questa è la solita storia. C'è anche un discorso di umanità. Le persone intanto furono trovate a casa e quindi ci stavano. Per carità, certo. Oh, succede però che magari in alcuni casi chiedono la malattia perché il figlio ha problemi, eccetera eccetera, quindi il medico che si era presentato con suo figlio perché non sapeva chi lasciarlo raddoppiò i giorni di malattia. Questo è per raccontare per empatia umana. Ma guardi, però anche ieri la stampa diceva che le malattie nel pubblico sono il 50% in più rispetto al privato, che gli uffici sono soprattutto al lunedì, spesso si concentra casualmente il numero di assenti. Infatti nelle misure del decreto c'è anche la cosa per cui se il lunedì sarà il venerdì a quel punto. Sarà il venerdì, oppure il giovedì allunghiamo direttamente il martedì. Olivia ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, dica. Io sono un dipendente pubblico e... premetto, chiaramente chi timbra e se ne va per i fatti suoi è un delinquente, non credo ci sia altro da dire, Però ecco, volevo rammentare che le norme per colpire i pubblici dipendenti ci sono già. Sì, sì, verissimo. Certo, ha ragione. Certo, ricordo la Brunetta, nel mio ente è stata interamente applicata. Ma prima del 2009 e anche del 2001, è proprio come dice lei. Ci sono, ci sono, ma non vengono applicate. Volevo però richiamare l'attenzione, siccome siete due giornalisti molto attenti, che per esempio a Bolzano i dipendenti pubblici, azienda sanitaria, provinciali, usufruiscono, la Brunetta non è stata applicata, addirittura è consentito fare la sola giustificazione per avere un giorno di malattia. Vero anche lì. Evidentemente si sono guadagnati magari con una percentuale di presenzialismo molto penso come alto. Olivia è una delle tante ragioni, ce ne sono anche di più gravi, ma questa comunque è seria, per cui secondo me, continuo a dirlo, gli statuti speciali no? Sì. Non hanno più una giustificazione storica, visto che sembra di vivere in paesi diversi. Adesso obiettivamente sono molto bravi ad amministrare il loro sovrappiù fiscale, non metto in discussione, però secondo me la ragione storica di quello statuto, che spiega perché quello che dice Olivia è vero lì, secondo me non valgono più. Perché deve essere così? Qual è la ragione? Ma sono tante le motivazioni per cui hanno per Cecco Beppe ancora è passato Cecco Beppe, Cecco Beppe l'imperatore, sono passati un po' di c'è decenni. Stefano da Venezia, regione che invece vorrebbe ambire magari lo statuto speciale, e guardano i vicini però in casa e si arrabbiano. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Stefano da Venezia. Mi scusi solo un attimo. No, prego, faccia pure. Per il discorso degli statali, del assenteismo, volevo solo dire che io sono un piccolo imprenditore di Padova e in realtà per me il problema è proprio alla fonte, cioè l'impiegato, qualunque esso sia, privato o statale, è troppo tutelato. Io infatti ero d'accordo per il Job Act, perché effettivamente a me è capitato con un dipendente, pur essendo privato, questo si è messo in malattia e quando dichiara depressione, noi si può mandare qualunque controllo, ma per la depressione, se gli fa bene stare in montagna, lui va in montagna e il controllo viene fatto lì e fa comunque quello che vuole. Quindi figuriamoci uno statale che sono ancora ipertutelati, quindi per me le regole ci sono già, noi andiamo solo a incasinarci, ad aumentarne, a cambiarle, si tratta solo di applicarle, del applicarle buon senso. Stefano, va bene, come vedete le testimonianze sono varie, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, caro Oscar, poi continuiamo a parlare di questo tema, parliamo di pendolari. Io devo parlare di un giudice quando di torniamo. Un giudice, sì, è vero, giudice. Ti ha colpito questo giudice che non ha condannato e i di cui non hai pronunciato bene il cognome, secondo me, secondo come spiegheremo te. Tra poco. Tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo solo noi. Ecco, adesso te lo becchi, Oscar. Che andiamo a letto la mattina. Tu hai i riff. Per me i riff stanno alle Maldive. Ma no, ragazzi, su, metti Jimmy Page, su, forza. Il riff è quello lì alle Maldive, quando ti tuffi c'è il riff. Per carità, poi queste sono le canzoni di una generazione, io non mi permetto di dire Vasco Rossi, è stato un punto di riferimento, lo è ancora, però adesso c'è una gerarchia nella storia della musica. Vabbè, sì. Però il grande Peter, vedi, secondo me dovremmo lasciarla fare a lui la trasmissione. Sì, sì, sì. Lui e Vincenzo De Luca che... È assolutamente, completamente d'accordo. Allora, Oscar sostiene che io ho sbagliato a pronunciare il nome di un giudice. No, questo giudice che è responsabile come giudice preliminare a Roma di questo provvedimento che mi ha fatto venire il sangue alle ginocchia, no, dopo aver circolato però il sangue agli occhi. Sì. Tu l'hai chiamato, come l'hai chiamato? Demizia. Ecco, Demizia, non Demizia. Invece no, è perché devi pronunciare la romana. Ezio Demizia, Demizia. Perché infatti la pronuncia che ha preso, adesso si arrabbierà perché io ho Demizia, è molto romanesca la Demizia. Perché capisci, mentre dovremmo essere, a proposito dell'Italietta, duri e inflessibili con i cori razzisti negli stadi, il giudice delle indagini preliminari assolve dei tifosi perché a Roma usano l'aggettivo in curva nei loro coretti ebreo come un sanguinoso insulto e per lui e c'è una legge, la legge Mancino, ci dice solamente che nel contesto si capisce, ma il contesto di che? Emerita testa di piffero! Il contesto di che? Se un giudice dice che gli insulti razziali agli ebrei sono una cosa che si comprende, per quello che mi riguarda mi quereli, voglio andare di fronte a un tribunale tribunale, che gli darà ragione in quanto cane non morde cane, ma mi vergogno di un giudice che la pensa così. Perché allo stadio, caro signor giudice, non si può dire, bisognerebbe proprio, lì come altrove sempre, che si espiantasse la mala pianta degli insulti razziali. La legge che è stata introdotta contro l'istigazione razziale serve innanzitutto nei luoghi pubblici, proprio per questo. Allora, beh, se lei è tifoso, sicuri. Non è che la legge Mancino, esatto, può godere di una extraterritorialità negli stadi. Comunque, questa è la notizia che ti ha colpito. Oh, cari amici pendolari! No, intanto c'è Simone da Lucca prima degli amici pendolari. Simone, buongiorno, lei è pendolare? Sì, no, non sono un pendolare. Va bene, puoi intervenire lo stesso, dica. Sì, grazie mille. Volevo dissentire senza che si infervori Giannino. No, oggi non succede, oggi non succede. No, oggi però ma scherza, è tutto studiato a tavolino, niente di più. Allora va bene, no, prima lei si è infervorato con col ministro che non interviene sul giudice. Che ha commesso, ora non ricordo esattamente cosa. E il problema, ed ha detto che il problema viene dall'alto. Sì. Io dissento perché quel ministro è nominato da un governo, da un primo ministro, che a sua volta è nominato da un Parlamento eletto da noi, e quindi esprime quella che è la volontà popolare. Secondo me il puzzo viene più dal basso, da quello che vedo intorno a me, ma questa è una mia idea e non la voglio fare infervorare di nuovo. No, ma non è stato infervorare, però capisci che il capo dello Stato, perché il ministro non può sul giudice, no? Sarebbe lesione dell'indipendenza. Infatti io ho detto, non a caso il presidente del CSM c'è il capo dello Stato, però le dice, perché secondo lei, scusi per capire, gli italiani sono favorevoli al fatto che i dirigenti pubblici non vengano colpiti quando sbagliano? Lei pensa di sì? Sì, se no avremmo votato in un altro modo. E premetto che io esercito la mia facoltà di non votare dal 1992, quindi ma mi sento colpito anche io di questa cosa. Ho capito cosa dice. Simone, la ringraziamo per questo suo intervento. Grazie. Allora, i pendolari. Cari amici pendolari, i pendolari si sono accorti qualche anno fa che sui treni pendolari che attraversano più regioni viene applicato un algoritmo e stranamente i biglietti. No, loro non sapevano l'algoritmo, loro dicevano, cioè, possibile mai che l'abbonamento di solito quanto più lungo il chilometraggio, a un certo punto l'aumento è meno che proporzionale. Da noi invece di più. Esatto, si sono accorti e hanno fatto dei calcoli dicendo ma qui spendiamo troppo, ma cos'è questa cosa? E si è scoperto che a calcolare tutti questi prezzi dei... È una formula, come è una sempre formula, un algoritmo. Però chi ha scritto la formula, lo Stato non è in grado di dircelo. Vabbè, insomma... Per esempio, in questo algoritmo non c'era previsto lo sconto chilometrico per chi fa più chilometri, considerando separatamente le tratte regionali, e quindi uno spendeva di più anziché spendere di meno. Se ne sono accorti i propri pendolari e hanno detto: ma come? E lì c'è il balletto di responsabilità. Trenitalia dice: non è colpa nostra, la conferenza Stato-Regioni cambi l'algoritmo. Le regioni dicono: lo Stato dice colpa alle regioni. Le regioni dice: oh, ma adesso scherziamo, siamo stati noi. Anche perché nel frattempo si stabilisce che siccome Trenitalia ha dei contratti da far valere, dice: voi mi dovete pagare, e lo Stato dice: beh, ci pensano le regioni a questo punto. Comunque, noi vogliamo chiamare Fulvio Bonavitacola, che coordina la Commissione Trasporti per la conferenza delle regioni e anche vicepresidente della Regione Campania. Buongiorno Bonavitacola, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, qui non vogliamo correre il rischio che col cerino in mano rimangano i pendolari, cioè alla fine in questo scarico di responsabilità. Però lo Stato e Trenitalia pare che siano d'accordo nel dire che dovete pagare voi, perché la colpa è vostra. Chi deve pagare? Ma intanto stabiliamo che questo mistero in realtà è oggetto di una polemica che risale al 2007. Sì, sì. Le regioni già allora evidenziarono delle anomalie su questo calcolo tariffario e ottennero una sorta di calmiere. Nel 2010, quando sono iniziati a diminuire i flussi di risorse alle regioni del Fondo Nazionale dei Trasporti, le regioni hanno dovuto verificare che Trenitalia aveva unilateralmente tolto questo calmiere. Quindi l'algoritmo, come è stato chiamato, produceva distorsioni paradossali. Se ne sono dovuti accorgere i pendolari, però. Guardi, all'epoca sicuramente io non svolgevo questa funzione. Sì. Sicuramente ho visto in atti sollecitazioni e proposte di diversa natura che sono venute dalla conferenza delle regioni. Quindi su sollecitazioni dei pendolari, non lo so, è possibile ed è giusto che i pendolari abbiano decisivamente esercitato le loro ragioni. Comunque, quello che voglio dire è che Trenitalia è dal 2010 che sa bene che c'è questa cosa. Prima singole regioni, in particolare l'Emilia Romagna e la Lombardia, poi la conferenza delle regioni con la commissione che io coordino, addirittura promosso la costituzione di tavoli tecnici con Trenitalia per risolvere il problema. Quindi voi dite che Trenitalia sapeva, Trenitalia allora sapeva, la domanda è, se voi chiedevate l'intervento, può essere mai che l'algoritmo l'abbiate scritto voi A, B e che dobbiate adesso pagare voi la differenza? Allora sicuramente no, la tariffa è una competenza del gestore. Nel 2007 mi riferiscono che la proposta di questo regime tariffario fu di Trenitalia, come ovvio che sia, e al momento per quella sorta di calmiere che fu ottenuto non creava queste distorsioni così vistose. Comunque le tariffe le fa l'azienda, chiariamolo questo. Oh. Sì, io sento un po' il sospetto che voglio dire, cari pendolari, cioè i pendolari che la stanno ascoltando in questo momento possono essere tranquillizzati del fatto che torneranno a pagare dei prezzi che sono, come dire, equi oppure no, a parte il fatto che chissà chi gli dà dietro i soldi, nessuno dei soldi. No, perché sai che con lo Stato i prezzi sono più che equi, sono Equitalia, che è un altro criterio. Cioè, questo algoritmo, allora, chi lo deve modificare adesso, almeno, così da oggi in poi? Allora, le tariffe devono essere modificate dal soggetto che le ha approvate, quindi da Trenitalia, il gestore. Trenitalia. Purtroppo devo dire che la vicenda è certo riguarda in maniera rilevante i pendolari, ma questo algoritmo è una distorsione in generale sul regime tariffario, esatto, anche per i non pendolari. Ecco, quindi sì, certo, è stato certo applicato questo algoritmo in maniera indifferenziata, determinando queste distorsioni. Ora, noi non siamo riusciti, nonostante varie iniziative che sono in atti e sono anche protocollate, ecco, quindi parlo di atti, non parlo di chiacchiere, noi fin qui non siamo riusciti. Sulla vicenda pendolari, proprio di recente ricorderete che c'è stata quest'altra strana iniziativa di incrementare il 35% degli abbonamenti con l'alta velocità, ricorderete, no? Poi ritoccata al ribasso. Poi siamo intervenuti, lì abbiamo ottenuto che hanno sospeso almeno il 50% di quegli incrementi, riconoscendo che avevano preso un'iniziativa, no, vabbè, per almeno non ma lei almeno lo sapete chi l'ha fatto questo algoritmo o no? Chi l'ha scritto questo algoritmo? Nel 2007 sicuramente l'ha proposto Trenitalia. Se lei vuole sapere chi nel 2007 nome, ha certo avuto, diciamo, Trenitalia. No, questo è certo, guardi, su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vabbè, diciamo, non allora pare che le regioni si mettono a fare l'algoritmo per per chiarire, è bene che si sappia. I nostri ascoltatori ricordino che, anche se questo Trenitalia non piace molto dirlo, noi del Sud Bruno Leoni abbiamo avuto un contenzioso giudiziario su questo, Trenitalia come gruppo Ferrovie dello Stato, ma Trenitalia e quindi Rete Ferroviaria hanno ogni anno un contributo di alcuni miliardi dal contribuente come contributo al servizio universale, oltre che agli investimenti, ma al servizio universale. La faccenda delle tariffe per i pendolari rientra nell'offerta di servizio che va garantita, visto che nel più delle regioni non ci sono state le gare, oltretutto. Ecco, quindi oltre al sovrappiù pagato dai pendolari, c'è la questione per tutti i contribuenti dei contributi per miliardi che vanno in conto esercizio economico a Ferrovie. Ma infatti, Oscar, mi chiedono chi controlla la tariffa. I pendolari che infatti si accorgono che pagano tanto. Tanto pagate voi, questo vabbè dice lo Stato. Vedremo. Allora, ti lascio così. Ma questo è Vasco Rossi, non credo. non credo. Dai, ci troviamo domani, spero, per quel che mi riguarda, tu sicuramente. Tu con meno febbre, io con un po' più di sole. Vediamo, vediamo. Senti, il festival di Sanremo, ma su, sentite musica buona.